Capitolo 67. Per sua buona sorte, Lydgate era uscito perdente dalla sala da biliardo e non trasse alcun incoraggiamento a tentare un'incursione nel campo della fortuna. Al contrario, provò un totale disgusto per se stesso il giorno successivo, quando dovette pagare 4 o 5 sterline in aggiunta a quanto aveva guadagnato. In aggiunta, si portò dietro una visione assai sgradevole della figura fatta, non solo stringendo confidenza con gli uomini del Green Dragon, ma comportandosi esattamente come loro. Un filosofo che si riduce a scommettere ben difficilmente si distingue da un filisteo nelle medesime circostanze. La differenza si troverà soprattutto nelle successive riflessioni del primo, e Lydgate, in questo senso, cade in preda a meditazioni assai amare. La ragione gli illustrava come con un minimo cambiamento di scena la faccenda si sarebbe potuta ingigantire portandolo alla rovina, se quella in cui era entrato fosse stata una casa da gioco, dove la fortuna si poteva afferrare con entrambe le mani invece di venire raccolta tra il pollice e l'indice. Comunque, sebbene la ragione soffocasse il desiderio di darsi al gioco d'azzardo, gli restò la sensazione che se fosse stato sicuro che la fortuna gli arridesse fino alla somma necessaria, avrebbe preferito giocare d'azzardo piuttosto che scegliere l'alternativa che cominciava a imporsi come inevitabile. Questa alternativa consisteva nel rivolgersi a Mr. Bulstrode. Lydgate si era gloriato tante volte, sia con se stesso che con altri, di essere del tutto indipendente da Bulstrode, ai cui progetti egli si era prestato solo perché questi gli consentivano di realizzare le proprie idee in tema di lavoro professionale e di pubblica utilità. Nei loro rapporti personali aveva costantemente conservato il proprio orgoglio, sostenuto dal senso di fare un buon uso in campo sociale di questo banchiere autoritario, le cui opinioni considerava spregevoli e i cui moventi gli sembravano spesso un misto assurdo di impressioni contraddittorie, al punto che forti ostacoli psicologici lo trattenevano da sottoporgli una qualsiasi richiesta considerevole di tipo personale. Eppure, all'inizio di marzo, la sua situazione economica era giunta al punto in cui gli uomini cominciano a dire di aver pronunciato i propri giuramenti senza sapere quello che facevano e a rendersi conto che il gesto che avevano definito impossibile per loro sta diventando palesemente possibile. Con la preoccupante garanzia data a Dover in procinto di venir presto messo a effetto, col ricavato della sua professione immediatamente assorbito per pagare i debiti arretrati e con la prospettiva, se il peggio si fosse venuto a sapere, che gli rifiutassero di fargli credito sulle provviste quotidiane, soprattutto con l'immagine della disperata scontentezza di Rosamond che lo assillava di continuo, Lydgate aveva cominciato a capire che avrebbe dovuto inevitabilmente piegarsi a chiedere aiuto a qualcuno. Dapprima aveva dibattuto fra sé e sé se avesse dovuto scrivere a Mr. Vincey, ma interrogando Rosamond era venuto a sapere che, come aveva sospettato, lei si era rivolta già più volte al padre. L'ultima dopo la delusione della lettera di Sir Godwin, e il padre aveva detto che Lydgate doveva trarsi d'impaccio da solo. Il babbo ha detto che si è ridotto con un'annata cattiva dopo l'altra a commerciare sempre più con del capitale preso a prestito e ha dovuto rinunciare a molte debolezze. Non può togliere neppure 100 sterline dalle spese per la famiglia. Ha detto che Lydgate si rivolga a Bulstrode. Sono stati sempre in confidenza. In effetti, Lydgate stesso era giunto alla conclusione che se doveva ridursi a chiedere un prestito senza ipoteche, i suoi rapporti con Bulstrode, almeno più che con chiunque altro, potevano assumere la forma di una pretesa che non fosse puramente personale. Bulstrode aveva indirettamente contribuito alla diminuzione dei suoi pazienti e inoltre aveva tratto motivo di grande compiacimento nel trovare un socio medico per realizzare i propri piani. Ma chi di noi si era mai ridotto al genere di dipendenze in cui Lydgate ora si trovava, senza cercare di credere di vantare dei diritti che diminuissero l'umiliazione di una richiesta? Era vero che negli ultimi tempi l'interesse di Bulstrode per l'ospedale sembrava nuovamente languire, ma la sua salute era peggiorata e mostrava segni di una malattia nervosa profondamente radicata. Sotto altri aspetti non sembrava mutato, era stato sempre assai cortese, ma Lydgate aveva osservato in lui fin dal principio una notevole freddezza nei riguardi del suo matrimonio e di altre faccende private. Una freddezza che finora aveva preferito al calore di qualsiasi familiarità. Rimandava il proposito di giorno in giorno. La sua abitudine di agire in conformità alle proprie decisioni era scalzata dalla sua avversione riguardo a qualsiasi possibile esito e alle successive conseguenze. Vedeva spesso Mr. Bulstrode, ma non cercava di approfittare di alcuna occasione per i suoi scopi personali. A volte pensava, gli scriverò una lettera, meglio così che qualsiasi discorso tortuoso. Altre volte pensava: no, se gli parlassi potrei tirarmi indietro al primo segno di riluttanza. Pure i giorni passavano senza che scrivesse nessuna lettera o cercasse un particolare colloquio. Nel ritrarsi dall'umiliazione di un atteggiamento di dipendenza da Balstrò, cominciò ad accarezzarne la fantasia a un altro passo ancora meno tipico della sua personalità di un tempo. Cominciò spontaneamente a pensare se sarebbe stato possibile mettere in esecuzione quell'idea puerile di Rosamond che spesso l'aveva mandato in bestia, vale a dire lasciare Middlemarch senza vedere nulla oltre quel primo passo. Si presentò alla domanda: ci sarebbe qualcuno che comprerebbe da me la clientela per quel poco che vale? Allora la vendita potrebbe presentarsi come una preparazione alla partenza. Ma contro questo passo, che tuttora egli considerava uno spregevole abbandono dell'attuale lavoro, un colpevole distogliersi da quello che poteva diventare un'attività degna, ricominciare da capo senza alcuna destinazione precisa, si opponeva a questo ostacolo, che il compratore, se mai lo si fosse riuscito a trovare, poteva non presentarsi subito. E poi? Rosamond, in una misera abitazione, anche se nella capitale più grande o nella città più distante, non avrebbe trovato la vita che l'avrebbe potuta distogliere dalla tristezza e che gli avrebbe risparmiato il rimprovero di avercela cacciata. Infatti, quando un uomo è ai piedi del colle delle sue fortune, può darsi che ci resti a lungo a dispetto della sua bravura professionale. Nell'ambiente inglese non esiste incompatibilità fra intuito scientifico e un appartamento ammobiliato. L'incompatibilità sta soprattutto fra l'ambizione scientifica e una moglie che non accetta quel genere di sistemazione. Ma in preda alle sue esitazioni, gli si presentò l'occasione che lo spinse a decidersi. Un biglietto da parte di Mr. Balstrow gli chiedeva di passare da lui alla banca. Negli ultimi tempi, nel carattere del banchiere, si era rivelata una tendenza ipocondriaca e un'insonnia, che in realtà era solo una lieve esagerazione di un abituale sintomo dispettico, lo aveva preoccupato come sintomo di follia incombente. Quella particolare mattina volle consultare Lydgate senza indugio, sebbene non avesse da dire nulla oltre a ciò che aveva già detto prima. Ascoltò con ansia quando Lydgate aveva da dire per dissipare i suoi timori, sebbene anche queste fossero già cose ripetute, e quell'occasione in cui Balstrow ascoltava l'opinione di un medico con una sensazione di conforto, a Lydgate parve rendere la rivelazione di un bisogno personale più facile di quanto avesse immaginato in precedenza. Aveva insistito sul fatto che Balstrow avrebbe fatto bene a distrarsi dagli affari. Si può vedere come qualsiasi sforzo mentale, per quanto lieve, possa influire su una costituzione delicata, disse Lydgate a quello stadio della visita in cui le osservazioni tendono a passare dal personale al generale, dal segno profondo che l'ansia lascia per un certo tempo sulle persone giovani e vigorose. Io sono per natura assai forte, eppure ultimamente sono stato assai scosso da un accumularsi di preoccupazioni. Suppongo che una costituzione, nello stato sensibile in cui la mia al momento si trova, sarebbe in tal modo particolare soggetta a cadere vittima del colera se si diffondesse nel nostro distretto, e visto che è comparso vicino a Londra, faremmo bene a invocare protezione al trono di Dio, disse Mr. Balstrow, non allo scopo di eludere l'allusione di Lydgate, ma sinceramente allarmato per sé. Voi ad ogni modo avete fatto la vostra parte per introdurre buone precauzioni pratiche per la città e questo è il modo migliore di chiedere protezione, disse Lydgate con un profondo disgusto per la debole metafora e la logica malferma della religione del banchiere, in certa misura accresciuto dall'evidente assenza della sua comprensione. Ma il suo pensiero aveva preso la direzione, da tempo prevista, di ottenere aiuto e non si era ancora fermato. Aggiunse: la città ha fatto un bel lavoro per quel che riguarda la pulizia e nel trovare le misure adatte, e penso che se il colera arrivasse, anche i nostri nemici ammetterebbero che le disposizioni nell'ospedale sono di pubblica utilità. È vero, fece Balstrow con una certa freddezza. Riguardo a quello che dite, Mr. Lydgate, sulla distensione dalla mia fatica mentale, è da un certo tempo che nutro un disegno in quel senso, un disegno assai deciso. Propongo un ritiro, perlomeno temporaneo, della direzione di gran parte dei miei affari, sia di carattere commerciale che benefico. Inoltre penso di cambiare residenza per un certo tempo, probabilmente chiuderò o affitterò The Shrubs e andrò ad abitare in qualche posto vicino alla costa, consigliandomi naturalmente riguardo alla sua salubrità. Sarebbe una misura che raccomandereste? Oh sì, disse Lydgate cadendo all'indietro nella sedia, con malcelata insofferenza davanti agli occhi pallidi e seri del banchiere, intensamente preoccupato per se stesso. Da un po' di tempo penso che dovrei affrontare con voi questo argomento riguardo al nostro ospedale, continuò Balstrow. Nelle circostanze di cui vi ho parlato, è naturale che io debba cessare di avere una qualsiasi partecipazione personale nella direzione ed è contrario alle mie concezioni della responsabilità continuare a profondere una gran quantità di mezzi in un'istituzione che non posso sorvegliare e in certa misura guidare. Perciò, nel caso di una mia decisione definitiva di lasciare Middlemarch, dovrò pensare a ritirare qualsiasi appoggio all'ospedale, tranne quello che sussisterà nel fatto che sono stato soprattutto io ad affrontare le spese della costruzione e a contribuire con ulteriori grosse somme alla riuscita del suo funzionamento. Il pensiero di Lydgate, allorché Balstrow tacque per un attimo, come era sua abitudine, fu: forse ha perso un sacco di soldi. Questa era la spiegazione più plausibile di un discorso che aveva provocato un mutamento piuttosto sorprendente nelle sue attese. Per tutta risposta disse: la perdita per l'ospedale ben difficilmente si potrà riparare, temo. Difficilmente? Ribatté Balstrow con lo stesso deciso tono argentino, se non con qualche mutamento nel progetto. L'unica persona su cui si può sicuramente contare per la sua disponibilità ad aumentare il proprio contributo è Mrs. Casavo. Ho avuto un colloquio con lei sull'argomento e le ho fatto notare come sto per fare con voi che sarà desiderabile procurare un appoggio più generalizzato al nuovo ospedale con un cambiamento di sistema. Un altro momento di pausa. Ma Lydgate non parlò. Il mutamento a cui alludo è una fusione con l'ospedale vecchio, cosicché il nuovo ospedale sarà considerato una speciale aggiunta all'istituzione più antica con lo stesso consiglio di amministrazione. Inoltre sarà necessario che la direzione medica dei due venga riunita. In tal modo qualsiasi ostacolo a un adeguato mantenimento della nostra nuova istituzione sarà superato. Gli interessi filantropici della città cesseranno di essere divisi. Ad una nuova pausa, Mr. Balstrow abbassò gli occhi dal volto di Lydgate ai bottoni della sua giacca. Senza dubbio questa è una misura indovinata per quanto riguarda i modi e le maniere, disse Lydgate con una punta di ironia nella voce. Ma non ci si può aspettare che io ne gioisca subito, dato che una delle prime conseguenze sarà che gli altri medici scompiglieranno o interromperanno i miei metodi, magari solo perché sono miei. Io stesso, come sapete, Mr. Lydgate, do un grande valore all'occasione che vi ho dato di introdurre sistemi nuovi e indipendenti che avete diligentemente impiegato. Quello originale, lo confesso, era un progetto che avevo molto a cuore e mi ero sottomesso alla divina volontà. Ma dato che le indicazioni della provvidenza mi chiedono una rinuncia, io rinuncio. Nel corso di questa conversazione, Balstrow diede prova di un'abilità alquanto esasperante. La metafora zoppicante e la cattiva logica della motivazione, che avevano suscitato il disprezzo nel suo ascoltatore, erano del tutto coerenti con un modo di esporre i fatti che rendeva difficile a Lydgate esprimere la propria indignazione e delusione. Dopo una qualche rapida riflessione, chiese solo: cosa ha detto Mrs. Casabo? Questa era la successiva dichiarazione che desideravo farvi, disse Balstrow, che aveva perfettamente preparato la sua spiegazione ministeriale. Lei è, come siete al corrente, una donna di natura assai munifica e per fortuna possidente, non di un gran patrimonio, presumo, ma di fondi che può ben donare. Mi ha informato che, sebbene avesse destinato la maggior parte di quei fondi a un altro scopo, è disposta a riflettere se non possa prendere il mio posto in tutto e per tutto riguardo all'ospedale. Ma desidera che le sia lasciato molto tempo per decidere sull'argomento. Io le ho detto che non vi è alcun bisogno di fretta, che in effetti i miei stessi progetti non sono ancora definitivi. Lydgate stava per dire: se Mrs. Casebo prendesse il vostro posto, sarebbe tanto di guadagnato. Ma sulla sua mente gravava ancora un peso che soffocò questa allegra espressione di schiettezza. E ribatté: allora suppongo di poter affrontare l'argomento con Mrs. Casebo. Esattamente, questo è ciò che lei desidera espressamente. La sua decisione, afferma, dipenderà molto da ciò che saprete dirle, ma non al momento. Credo sia proprio per intraprendere un viaggio. Ho la sua lettera qui, disse Mr. Bulstrode tirandola fuori e leggendo da essa. In questo preciso momento ho altri impegni, dice. Sto per andare nello Yorkshire con Sir James e Lady Chatham e le conclusioni a cui giungerò a proposito di una certa tenuta che colà devo vedere potranno influire sulle mie capacità di dare un contributo all'ospedale. Cosicché, e Mr. Lydgate, non è necessaria alcuna precipitazione in merito, ma ho voluto mettervi al corrente prima di ciò che è probabile che accada. Mr. Bulstrode ripose la lettera nella tasca della giacca e mutò atteggiamento come se il suo compito fosse terminato. Lydgate, le cui rinnovate speranze per l'ospedale lo rendevano ancora più consapevole dei fatti che gli avvelenavano tali speranze, avvertì che il proprio sforzo alla ricerca di un aiuto, se mai lo avesse fatto, doveva compierlo ora e con vigore. «Vi sono molto obbligato per avermi informato esaurientemente», disse con ferma voce e intenzione, eppure con un'espressione rotta che mostrava di parlare controvoglia. «Per me lo scopo più alto è la mia professione e ho identificato l'ospedale con il miglior uso che al momento posso fare di essa. Ma il miglior uso non corrisponde spesso col successo economico. Tutto ciò che ha reso impopolare l'ospedale ha contribuito con altre cause, penso che siano tutte in rapporto con il mio zelo professionale, a rendermi impopolare come medico generico. Ho soprattutto pazienti che non sono in grado di pagarmi. Sarebbe l'ideale per me se non avessi nessuno da pagare a mia volta». Lydgate attese un po', ma Bulstrode si limitò a chinarsi, guardandolo fisso, e lui proseguì con la stessa espressione rotta, come se stesse mordendo uno sgradevole porro. «Mi sono cacciato in difficoltà finanziarie da cui non vedo alcuna via di uscita, a meno che qualcuno che abbia fiducia in me e nel mio futuro mi anticipi una somma senza altra garanzia. Mi era rimasto assai poco quando sono arrivato qua, non ho speranze di ottenere denaro dalla mia famiglia. Le mie spese in conseguenza del mio matrimonio sono state molto superiori a quanto mi aspettassi. Il risultato al momento attuale è che ci vorrebbero 1.000 sterline per liberarmi dai debiti. Voglio dire, per liberarmi dal rischio che tutti i miei beni siano venduti in pagamento del mio debito più grosso, oltre che per pagare altri debiti, e lasciarmi qualcosa che ci dia un po' di respiro col nostro esiguo reddito. Ho scoperto che è da escludere che il padre di mia moglie mi dia un tale anticipo. Ecco perché rivelo la mia condizione all'unico altro uomo di cui si possa ritenere che sia in qualche modo personalmente connesso con la mia prosperità o la mia rovina». Lydgate si destò a sentire le proprie parole, ma oramai aveva parlato con lampante franchezza. Mr. Bulstrode ribatté senza fretta, ma anche senza esitazione. «Questa notizia mi addolora, però lo confesso, non mi sorprende, Mr. Lydgate. Per parte mia mi sono rammaricato che vi siate imparentato con la famiglia di mio cognato, che è sempre stata di abitudini prodighe, che mi deve già molto perché la sostengo nella sua tale condizione. Consiglio che potrei darvi, Mr. Lydgate, sarebbe che invece di impegnarvi in ulteriori obblighi e continuare una lotta dall'esito incerto, dichiariate semplicemente bancarotta. Ciò non migliorerebbe le mie prospettive», disse Lydgate alzandosi e parlando con asprezza, «anche se la cosa fosse in sé più gradevole». «È sempre una tribolazione», disse Mr. Bulstrode, «ma le tribolazioni, mio caro signore, sono il nostro destino qua giù e un correttivo necessario. Vi raccomando di riflettere sul consiglio che vi ho dato». «Grazie», disse Lydgate, senza quasi rendersi conto di quel che diceva. «Vi ho preso troppo del vostro tempo. Vi saluto». Capitolo 68. Quel cambiamento di programma e mutamento di interesse che Bulstrode comunicò o rivelò nel suo colloquio con Lydgate era stato provocato in lui da qualche dura esperienza che aveva avuto dall'epoca della vendita all'asta di Mr. Larker, quando Raffles aveva riconosciuto Will Ladislaw e il banchiere aveva tentato invano di compiere un atto di risarcimento che avrebbe potuto indurre la Divina Provvidenza ad arrestare delle dolorose conseguenze. La sua certezza che Raffles, a meno che non fosse morto, sarebbe tornato a Middlemarch entro breve tempo, era stata confermata. La vigilia di Natale, questi si era rifatto vivo a The Shrubs. Bulstrode era in casa ad accoglierlo e impedire che parlasse col resto della famiglia. ma non poté del tutto evitare che le circostanze della sua visita lo compromettessero e allarmassero la moglie. Raffles si dimostrò meno malleabile che in occasione delle sue visite precedenti. Il suo stato cronico di agitazione mentale, effetto crescente di un'intemperanza abituale, scacciava rapidamente ogni impronta di ciò che gli veniva detto. Insistette a voler restare in casa e Balstro, soppesati i due mali, capì che questa almeno non era un'alternativa peggiore di una sua visita alla città. Per la serata lo tenne nella propria stanza e lo accompagnò a letto, mentre Raffles per tutto il tempo traeva piacere dall'irritazione che arrecava a questo rispettabile e assai prosperoso complice di delitti, un piacere che egli con aria faceta espresse come partecipazione per la gioia dell'amico nell'intrattenere un uomo che gli era stato utile e che non aveva avuto interamente quanto si era guadagnato. Sotto questo scherzo rumoroso vi era un abile calcolo, una fredda decisione a estorcere qualcosa di più sostanzioso da Balstrow per liberarlo da questa nuova tortura. Ma la sua astuzia era andata un po' troppo in là. Balstrow era in effetti più torturato di quanto la rozza fibra di Raffles gli consentisse di immaginare. Aveva detto alla moglie che si stava semplicemente prendendo cura di questa persona disgraziata, vittima del vizio, che altrimenti avrebbe potuto nuocere a se stessa. Sottintendeva, senza ricorrere alla forma diretta della menzogna, che c'era un vincolo familiare che lo obbligava a questa sollecitudine e che Raffles vi erano segni di alienazione mentale che imponevano cautela. Lui stesso avrebbe portato via in carrozza quella persona disgraziata il mattino successivo. Con questi accenni, egli pensava di fornire a Mrs. Balstrow delle informazioni cautelative per le figlie e la servitù, e di spiegare perché non permetteva a nessuno, tranne se stesso, di entrare nella stanza addirittura col cibo e le bevande. Ma si deve imprendere dalla paura tormentosa che Raffles venisse udito mentre faceva chiari riferimenti ad alta voce a fatti trascorsi, che Mrs. Balstrow fosse addirittura tentata di ascoltare alla porta. Come poteva impedirglielo? Come tradire il proprio terrore aprendo la porta per scoprirla? Era una donna delle abitudini franche e oneste ed era poco probabile che si abbassasse a un simile gesto per giungere ad una dolorosa verità, ma il timore era più forte del calcolo delle probabilità. In tal modo Raffles aveva spinto la tortura troppo in là e aveva prodotto un effetto non contemplato nei propri piani. Con la sua condotta disperatamente intrattabile, aveva indotto Balstrow a pensare che un forte senso di sfida fosse l'unica risorsa rimastagli. Quella sera, dopo aver portato Raffles a letto, il banchiere ordinò che la carrozza chiusa fosse approntata per le 7:30 del mattino successivo. Alle 6 era già vestito da tempo e aveva trascorso parte della propria tristissima attesa immerso nella preghiera, difendendo le motivazioni che lo avevano indotto a scansare il male peggiore, anche se era ricorso alla menzogna e non aveva detto il vero agli occhi di Dio. Infatti Balstrow rifuggiva dall'aperta menzogna con un'intensità sproporzionata al numero delle sue malefatte più indirette, ma molte di queste malefatte erano come i sottili movimenti muscolari di cui consapevolmente non si tiene conto, sebbene portino allo scopo su cui fissiamo la nostra mente e che desideriamo. Ed è solo ciò di cui siamo chiaramente consapevoli, quello che possiamo immaginare, che sia visto da Dio onnisciente.